Smart City, la città intelligente. Buonasera da Maurizio Melis, torniamo a parlare di stampa 3D stasera, di quella che molti chiamano la terza rivoluzione industriale. Ormai questi oggetti, le stampanti 3D più economiche, si trovano persino sugli scaffali dei supermercati, e questo è un segno di cambiamento incontrovertibile. Però c'è un paradosso tipico dei nostri tempi, e cioè che probabilmente mentre da qui a qualche anno una generazione di dodicenni sarà in grado di progettarsi la casa delle bambole, stamparsi, diciamo così, l'ultima generazione di statuine di supereroi, ci saranno contemporaneamente molte imprese, probabilmente studi di progettazione, professionisti che potrebbero trarre grande vantaggio da queste tecnologie in ambito professionale, ma che sono poco alfabetizzati sull'informatica e finirà che non si fileranno neanche queste opportunità. Ne parliamo con il direttore del laboratorio Smartup, il professor Luca Mari. Buonasera Mari. Buonasera. Dunque, laboratorio nato all'Università LIUC di Castellanza in collaborazione con l'associazione locale degli industriali della provincia di Varese, che ha proprio lo scopo di favorire la diffusione di questa tecnologia della stampa 3D presso le imprese del territorio. Vorrei proprio che ci spiegassi bene che cosa può cambiare oggi concretamente, immediatamente, nelle imprese che progettano e sviluppano dei prodotti grazie a queste tecnologie. Immagina che un'azienda che debba, per esempio, producendo su commessa, fornire al cliente un esempio di quello che potrebbe essere la macchina finale, il prodotto finale, oggi tipicamente deve rivolgersi a un terzista al quale, fornendo i disegni, dal quale si aspetta uno stampo che ha un costo elevato, che non è tipicamente riutilizzabile nel momento in cui il prototipo per qualche motivo dovrebbe essere cambiato, no? E quindi tempi, costi, quindi complessivamente risorse estremamente elevati. Immagina cosa può cambiare nel momento in cui invece dal disegno in casa o eventualmente anche da un'azienda terza che stampi si ottenga direttamente il prototipo. L'oggetto che magari non ha tutte le caratteristiche funzionali del prodotto finito, ma poter andare dal cliente finale con un oggetto toccabile, tangibile, sì, sì, incastrabile, che lui vedrà, incastrabile dentro l'ingranaggio dove deve andare, no? Esattamente, potente, no? Certo, e poi la possibilità anche di presentare 10 varianti invece magari di un oggetto. Il giorno che ti accorgi che il cliente si aspetta qualcosa di diverso, tu gli dici: aspetta un attimo che cambio il disegno e fra 3 ore, supponiamo, ti ripropongo un nuovo prototipo. Ecco, la nostra intuizione è che non c'è da fare oggi innovazione tecnologica, o ce n'è, ma solo marginalmente, ma forse soprattutto innovazione di processo e quindi tendenzialmente culturale. Ecco, poi non c'è solo la stampa 3D, ci sono altri fattori abilitanti di tipo tecnologico che possono cambiare il modo di fare progettazione e prototipazione di cui voi vi occupate. Certo, un secondo esempio davvero straordinario nelle sue potenzialità ha un nome, è Arduino, una scheda elettronica tra l'altro prodotta in Italia. Arduino è una scheda elettronica con la caratteristica di essere open source, straordinaria per fare prototipazione di quelli che potremmo chiamare oggetti intelligenti, smart objects, cioè, detto in altri termini, insieme con la stampante 3D che ci consente di produrre il prototipo, potremmo immaginare che quel prototipo non abbia solo caratteristiche meccaniche, ma anche di interattività, di interazione con l'utente, sì, oggi tipicamente attraverso appunto elettronica, sensori, attuatori, eccetera, controllati da questo piccolo, semplice oggetto. Che è una specie di mini computerino con delle interfacce base, no? E standard e appunto open source, per cui ognuno può fare, modificare, utilizzare quello che è stato già prodotto. Si dice esattamente che attraverso oggetti come Arduino si possano prototipare, magari poi mandare anche in produzione, ma almeno prototipare idee, cioè sono attivatori di creatività. Immagina il gioco del Lego, ma attivato a livello di elettronica. Certo. E quindi dove i mattoncini, invece che essere meccanici, sono sensori, il sensore di temperatura, di luce, di umidità, eccetera, attuatori. A me viene il sospetto che i famosi dodicenni, oltre a stamparsi l'esserino, diciamo, il robot di turno, probabilmente riusciranno anche a dargli vita con Arduino. Bravissimo, gli smart objects hanno esattamente questa idea, quella di essere concentrati di creatività, ma non più solamente come nel mondo di internet, lato software, ma oggi siamo nel mondo dell'internet delle cose, Internet of Things, per cui una congiunzione creativa di atomi e bit. Grazie Luca Mari. Un piacere. Ci fermiamo qui, appuntamento a domani.